dai luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Però c'è un'altra cosa che voglio dirti, che credo che sia il vero grande merito di questa fiction, è che non ci sono i toscani. Capisci? Cioè nessuno che dice la mia mamma e il mio babbo, passami la carne, la carta, eh? Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese. E questo lo devi scrivere, per favore, scrivilo. E questa era un estratto di Boris, forse la più bella e importante serie televisiva italiana degli ultimi 20 anni, sì. Se non ho paura a dirlo. E questo era Pietro Sermonti che interpretava il mitico Stanis La Rochelle, che arriva direttamente da Stanislavski. Ah, ok. È una, se non ci avete mai pensato, no, no. No. Di solito queste cose siete le pensi ignoranti. Tu. Le lasciamo a te, che sei uomo di teatro, Beppe, queste cose. Vabbè, andiamo avanti. E insomma, tirava in ballo i toscani, li attaccava e li definiva la causa principale del collasso di questo paese. Adesso, forse esagerava un pochino, però ci piaceva iniziare così. Perché oggi parleremo di toscani, parleremo di questa, diciamo, di questa parte della regione d'Italia, della Toscana. Si sta avendo una battuta orrenda sul fotografo da radio universitaria. Meno male che non l'hai detto. No, quella su i sigari non l'ho fatta. No, bravo. non l'ho fatta, ma la sto facendo. Ma fai schifo. Possiamo andare avanti, per favore. Perché il luogo comune di oggi che trattiamo off topic è i toscani sono più simpatici, si dice. Vero. Ma non lo so. No, dico il luogo comune che trattiamo oggi. Okay, ci caschi sempre tutte le volte, pure questa la tagliamo. Allora, si dice infatti che sono più simpatici, sono più cacciaroni, fanno ridere più degli altri, ma è vero questo luogo comune? Ma sì o non lo so. Io trovo più simpatici i liguri, per dire. Io i romani personalmente. Tu, Beppe? Ma non lo so, io ho scandagliato. Io volevo sapere il perché di questa cosa qua. E sai qual è il perché, secondo me? Eh? È tutta colpa di Pieraccioni. Ma no, ma Pieraccioni, come? Il ciclone, ma Lorena Fortesa, le spagnole sono arrivate, c'è stata tutta questa euforia, un po' di festa. Vabbè, ma non è che è un problema se loro sono più simpatici degli altri. Va benissimo, non si discute. Altri elementi che hai trovato nel web? Ho trovato questa cosa bellissima. I toscani sono simpatici, i toscani. Non ti viene, non ti sai viene. Cosa fanno? Cosa? Fanno il volo del ciuco. Facevano, ora non lo fanno più, il volo del ciuco. Ho scoperto che a Empoli, tra il 1397 e il 1860, c'era questa festa in cui un asino veniva tirato in cima al campanile della collegiata. Vero? Sì, vivo. Ma vivo? Vivo. Legato a una corda, veniva fatto volare così. Ma sono i criminali. Perché si divertivano? Sì. E Wikipedia dice, scivolando lungo la corda e sbattendo contro il palazzo Ghibellino. Ma a un certo punto hanno tolto questa cosa perché era un po' cruento verso l'animale. Leggermente. Tutta questa cosa qua è avvenuta perché durante una battaglia, a un certo punto, credo l'esercito di San Miniato disse una cosa tipo i generali affermarono per scherno che avrebbero visto prima gli asini volare che la loro città vinta dagli empolesi. Allora gli empolesi così per fare uno scherzo, via, si appende un asino e si fa volare. Ecco, bene. E per questo sono simpatici, secondo te? È una delle origini. Ma sì, potrebbe essere. Wikipedia cosa ti ha regalato? Poi c'è il carnevale di Viareggio. Vabbè, dai, Toscana, patrimonio, di certo. Scherzi, quello le cose, sì. Così. Quello è vero. Cioè che il carnevale lo possono fare solo loro? No, però è insomma, sono più quello bravi più conosciuto, farlo, cavolo, è quello, dai, ragazzi. Io tra l'altro ho sempre odiato il carnevale. Sì, questo anch'io, effettivamente. Allora, anch'io un po' io mi sono un po' affidato a Google. Che di cioè passiamo da Wikipedia a Google, proprio le fonti, come dire. Passiamo dal 1500 a Google. Radio 24, la passione delle fonti, proprio. Esatto, se scrivo i toscani sono, esce i toscani sono freddi. Come freddi? C'è scritto qua a Google. I toscani sono freddi, antipatici e maleducati. Ma c'è il contrario del luogo comune? Evidentemente forse i toscani pensano di essere simpatici. In realtà ma stanno sulle balle. Ma che fanno, diciamo, fanno in overacting, fanno un po' di... Provo poi a scrivere anche il nostro luogo comune di oggi, che sono più simpatici. Infatti, vedi, Google mi ha tratto in inganno, esce più simili. Guarda, sono più simili all'uomo di Neanderthal. Scusa, no, come? Come i toscani sono più simili all'uomo di Neanderthal. Schiaccio enter. Scusami. E viene fuori, sì, una specie di ricerca che dice che praticamente nei geni toscani c'è una percentuale di uomo di Neanderthal più alta rispetto ad altri. Alle altre regioni? Sì, altre. E quindi, scusami, sono i Neanderthal più simpatici. Non è una cosa transitiva, sinceramente. Lo chiederemo senza dubbio al nostro ospite Paolo Ruffini e gli chiediamo: Paolo, voglia, tu sei... Mi sembra... No. Sì. Volevo ringraziarvi per la bella presentazione che avete fatto, per come mi avete lanciato. Sì. Sei bello, dai, bellissimo. Essere qua, perché cioè è lanciato così bene, introdotto così bene, grazie ragazzi. Più che altro volevamo sapere se tu ti senti simile all'uomo di Neanderthal. Sì, molto. Molto. Molte affinità, sì. Quanto sì, c'è di Neanderthal in te? Beh, tantissimo, soprattutto il fatto di così, a parte l'utilizzo della clava, a parte abitare proprio a Neanderthal, ma comunque è vero. A Neanderthal. Pistoia è una località vicino a Abbiategrasso, no, credo che sia vicino a Fucecchio, no. Esatto. Neanderthal Neanderthalensis. Fra l'altro sono molto contento di essere qui, veramente, a parte l'introduzione, poi è bello essere qui in mezzo a voi giovani. Grazie. In regia Edoardo Leo che credo sia un concorrente, c'è Edoardo Leo e un concorrente di Street Fighter 2, non mi ricordo come si chiama. Scusate che cerco Edoardo Leo, stare a io vengo proprio da Neanderthal e sono l'uomo di lì, insomma, quindi... Comunque Paolo Ruffini, per chi non lo conosce, credo poche persone, sta tra l'altro adesso su Italia 1, sta conducendo la pupa e il secchione, sì, e viceversa, perché sempre cose, c'è anche una viceversa, certo, sì. Come mai viceversa, scusami? Perché abbiamo deciso che l'incultura, se vuoi, giustamente, non credo che abbia genere, quindi non... c'è anche il pupo e la secchiona. Ah, per, come dire, fa piacere che tu abbia visto la trasmissione. No, non l'ho guardata. No, ma dai, non ho la televisione. No, dovresti fare... Non hai... Io, Dio mio, guarda, subito direi, chi mi dice? Non ho la televisione. Tu lo sono vuoi come menare. Quelli che vanno in bicicletta e vanno a 3 metri avanti al semaforo. Non vado in bici. Guarda, non vado in bici. Hai presente quelli che vanno in bicicletta, che vanno un po' più avanti del semaforo e se non c'è nessuno passano? Esatto. Ecco, nero. Io lo faccio questo. Tu li acceleri in macchina? Non ce l'ho. No. Io non ho la televisione. Come le fighe che dicono: no, io non sono la modella, sì, sono la fotografa. Mamma mia! Guarda che quelli, capito, il professore menando, da filosofia con le toppe. Non me la sto menando. Ma sai che c'è l'universitario? Certo! Oggi non certo ce l'ha, ma di solito ce l'ha. Guarda, c'ho anche un buco nelle scarpe, quindi... Ah, beh, siamo veramente messi bene. E c'ho il sassolino nella scarpa. Beh, veramente un buco nella scarpa. Gli ascoltatori non lo vedono. C'è un buco nella scarpa ed è uscita una sardina. Ma lasciamo stare. Senti Paolo, però sul luogo comune di oggi, perché secondo te universalmente in Italia è riconosciuto che nel luogo comune i toscani sono più simpatici? Non è, guarda, c'ho la confidenza, come ho fatto anche adesso, che vedi, mi prendo confidenza con qualcuno che non conosco. Questo tipo di confidenza eccessiva, che molto spesso viene anche scandagliata nel nostro tessuto moderno come qualcosa di eccessivo, qualcosa di chi sei tu per dire questo. Ecco, quello che lo scherzo che ho appena fatto con Alessandro, che ho appena conosciuto, uh-huh, è esattamente la vista toscana, ovvero qualcosa che fa della goliardia un elemento di comunione. Cioè, questa è una roba che fa parte. Guarda, ti dico un episodio, c'è un detto significativo e sintomatico. C'è un livornese che a un certo punto, sai, a Livorno c'è il mare. Tu sei di Livorno, ricordiamolo. Sono di Livorno e vede Gesù che cammina sulle acque. No, vai tranquillo. Vede Gesù che cammina sulle acque e il livornese è lì che si leva una rosina d'ardente. A un certo punto lo guarda e dice: boia, guarda quello lì, non sa nemmeno nuotare. Questo è, capito? Cioè, non chi male si può innervosire, chi si può infastidire. Ecco, se su qualcosa non ci si scherza, vuol dire che c'è qualcosa che non, ecco, va. Ecco, a proposito di scherzare, i pezzi comici, tu ne hai scritti tanti, insomma, insomma, è un bel po' di gavetta alle spalle, ma io penso che un comico toscano, quando si mette a scrivere una battuta comica, sa già che farà ridere proprio perché è toscano. C'è questa componente quando tu ti metti a costruire qualcosa per scrivere per la TV? O non ci pensi ormai più? No, non ci penso, ma perché credo che, ma questo non è un vanto, però credo che a differenza di tanti altri dialetti e tante altre tipologie di comicità, credo che forse quella toscana è anche quella lievemente meno autoreferenziale, o almeno non la sento così tale, no? Nel uh-huh senso che noi non è che sostituiamo le parole per dirne altre. Noi avete volte... inventate le parole voi toscani. Ma al di là di quello, cioè, voi ci sono delle lesioni, ci sono dei momenti in cui non si dice la sci, non si dice, cioè, hai capito? Noi, certo, noi si elide a volte, però non è che si sostituisce. Quindi rispetto, se vuoi, ad altre meravigliose forme di comicità, quella napoletana, quella siciliana, ma anche quella meneghina a volte, che, cioè, hai visto, no? Il napoletano per esempio ride molto col napoletano, sì, e questa è inevitabile, no? Cioè, cacchio, però è anche la bellezza di Napoli, che molto spesso, come il neomelodico, cioè, fa le canzoni per Napoli, a Napoli è famosissimo, autoreferenziale, diciamo, un pochino, però, come dire, rimane circoscritto nella regione, rimane circoscritto nella regione, e trovi nei neomelodici anche famosi quanto Vasco Rossi. Anche se io amo il neomelodico, anch'io, ma veramente, ma sì, anch'io, sì, sì. Senza te non bozze sta perché tu m'appartiene, bello, esatto, perché molto... No, pensavo continuassi, mi piace tanto, no. Adesso no, in poi basta. però capito, come dire, se vuoi il toscano, cioè, c'ha questo, essendo al centro, ha questa facilità forse nella comunicazione che arriva. E se invece fossero tutti molto tristi, in realtà non vogliono far ridere, ma fanno ridere? No, dici? No, dici che ma non... c'è tanta malinconia. Beh, dietro la risata c'è tanta malinconia, ma tanta, ma questo è evidente, insomma. Senti, non credo è uno, cioè il fatto del comico è proprio malinconico, cioè il comico è una persona che Pierrot, rispetto a qualsiasi altro attore, sai, se tu reciti una cosa può piacere o non piacere, l'effetto lo vedrai, ma quando tu fai una battuta e nessuno ride l'effetto è immediato. Ecco, e crea a proposito, una frustrazione come si immediata. Esce da una battuta di merda? Non in nessun modo, in nessun modo, cioè il silenzio che ti devasta. Cioè il comico è uno dei ruoli e uno dei lavori, dei mestieri più complicati e più tristi che io abbia mai avuto modo di accorgermi, insomma. Signori e signore, Sofia Loren! È un grande momento, un grande applauso, una grande emozione. Sarà una gravidanza, ma io piango, che devo fare? Devo dire la verità, signora Loren, è sempre una toppa meravigliosa, lei veramente, se lo lasci dire, è una cosa fantastica, sono felicissimo di averla qua. Provi a spiegarci se ha voglia un po' come funziona essere diretti da un regista che è anche suo figlio, no? Come sono andati i rapporti sul set? Mi diceva questo set non è un albergo, non lo so, come funziona? No, di là della bischierata mia, via. Che è proprio una bischierata. La ringrazio, signora. Posso fare un selfie? Non so neanche che cosa significa, perché lei parla un dialetto che io non conosco. La ringrazio. Ma no, probabilmente non conosce nemmeno me, ma questo le rende a quel più onore. No, mi diceva, e quindi com'è andata più o meno? È andata. Beh, farsi prendere prima. Mi fa Sofia Loren, mi è fa top. Impressione. Scusate, ma io sono felicissimo. Allora, questi secondi lunghissimi, esatto, tra che, una battuta che è successo e l'altra. Qua? Che è successo qua? Ma mi fai parlare di una roba che io non ne posso. Cioè, non ne puoi più. No, non volevi rimuovere? Ma ancora. Però ma in realtà ancora, posso dire anche. Esatto, in realtà volevamo farti esatto. Complimenti perché hai tenuto una botta allucinante. Anche secondo me. Le gaffe le fanno tutti. Ma non è una gaffa. Una gaffa è quando io vado a un battaglio. Cioè, come dire, se io dico invece di condoglianze e congratulazioni, è una gaffa, no? Sì. Anche se, scusami, potrebbe anche essere giusto. Nel caso di una suocera, scusami, esatto. Per stare nell'uomo, quello tu davanti a una signora di una certa età, in maniera cafona, dice: ah, ma signora, ma lei dall'alto delle sue primavere, oppure ancora alla sua età, ecco, questa è una gaffe. Ma non è una gaffe fare un complimento ad una donna. Ok, quindi tu non ti penti di quello che hai fatto quella sera? Ma mi pento di cosa? Cioè, perché? Cos'è successo? Scusa. Io sono tra l'altro. Sofia si era incazzata, dai. Ma va. Ma come no? Era freddissima e ti ha blastato, ti ha detto. Ma no. Il tuo accento. Ma non è successo niente. Nel senso, è successo soltanto che uno su Twitter ha detto che era una gaffe. E verticalmente nel 2014 i social non avevamo ancora capito che erano una fogna. E quindi. Esatto. Però credo che dopo è successo molto di peggio. Cioè voglio dire, c'è chi a Davide Donatella ha detto: ragazzi, fate discorsi corti che Rondi ne ha per poco, insomma, no? Ma sì, è vero. E poi cioè, penso vero. Sia ben peggio quello, sì, no? È vero. Però se devo essere sincero, io sono dalla parte di Paolo, anche se non è stata richiesta questa cosa. Ma non c'è una fazione. No, hai anche, tranquillo, però perché secondo Paolo, me, è uno che ti difende. No, perché secondo me, cioè in quel caso lì, sei sul palco, da dietro le quinte hai sentito il conduttore come presenta, insomma, come si comporta sul palco. Ma stai al gioco. Ma ragazzi, ma i Golden Globe l'avete visto? Ma sì. Esatto. Cioè, America cosa fa? Ma hai visto quando danno i premi, che ne so, a Ñarrito dicono: ah, the Oscar goes to son of a bitch, I'm a Mexican boy. Esatto. Ma ti pare te vai a Davide Donatello e dici: Davide Donatello va a un napoletano, cazzo, quel terrone di non si può, la rovina, succede un casino. Perché non l'hai fatto? Perché non ma l'hai fatto? Perché non siamo più liberi di fare nulla. Ma c'è censura. Quando è che abbiamo perso la libertà? Ma quando sono entrati i social? Ah, non, dici che non un po' prima. Ma no, ma ti immagini Mike Buongiorno oggi? Guarda che cacciavano comici dai palchi molti anni fa, prima dei ma social. Ma ho capito, ma Benigni cosa faceva? Ma ti immagini se io vado ora da Amadeus e li tocco il pacco? Cioè, nel senso che tutto quello che noi abbiamo di bello nel nostro immaginario collettivo è bello perché non esistevano i commenti. Cioè, nel senso che ti sentivi libero di farlo. Ti immagini drive-in, has, fidati. Sì. Gli animalisti ora cosa direbbero? Cioè, nel senso, no, è vero. Non esisterebbe niente della nostra cultura contemporanea. Avanti, no? C'è no, qualcuno? C'è nessuno. Ma secondo te ne usciamo da questa impasse del, come dire? No, politically correct. Cioè, io ti ripeto, pensa a Mike Buongiorno oggi, lui è diventato famoso. Il gaffer per eccellenza, certo. Per essere umano, no? I conduttori erano umani. Io qui ho tatuato Corrado. Vedi? Ah, guarda. Facciamolo vedere in camera anche, visto che abbiamo il canale YouTube. Aspetta. Che è un uomo che ha sempre fatto, veniva dalla gente e faceva anche lui delle come Vianello, come tu. Cioè, oggi non puoi sbagliare, perché se sbagli vieni massacrato. Scusa, allora, ti ripeto. Una polemica di oggi, Paolo, quella di questi giorni, di Amadeus, che ha detto, a proposito della fidanzata di Valentino Rossi, ovvero Francesca Novello, che sa stare un passo indietro, la scelta per quello. È stato attaccato sui social, appunto, femminista. Non me ne frega più niente, davvero. Non te ne frega nulla. Zero. Cioè, non leggo, faccio, sono trasgressivo, compro la Repubblica e la Stampa. Cioè, io non ho. Non ne posso più. Ti giuro, io leggo l'età. C'è una frase a casa, dice Aristotele: l'uomo è un animale sociale. Mm-hmm. Non so, cioè, non hai in più, capito? Cioè, siamo diventati insopportabili, realmente. Ma io, guarda, 2 anni fa ho montato un film che si chiama Super Vacanze di Natale. Sì. Che era la somma, sì, di tutti i cinepanettoni. E l'ho montato nella maniera più volgare possibile. Apposta. Perché manca proprio la volgarità. Uh-huh. Cioè, la volgarità vera, la volgarità genuina, quella che della parolaccia gratuita. È una cosa meravigliosa. A Natale io ho visto un genitore che è andato con un ragazzo di 16 anni al cinema e dice: ah, mi dà 2 biglietti per la Dea Fortuna. Dice: ah, vabbè, quant'è? Ma è comico, vero? No, guarda, Dea Fortuna un film, una commedia amara di Oz, del signor Ozpetek. Sì. No? E allora ha detto: no, ma il film comico di quest'anno qual è? Cioè, beh, guardi, cioè Ficarra e Picone, sì, però l'ho visto. No, ma bello, eh. Però volevo dire, il film comico che fa comico, ridere comico. Quest'anno Tolo, Tolo, no? È uscito Tolo Tolo. No, il film comico, te lo ripeto, il film comico di quest'anno qual è? Il film comico di quest'anno, a Natale, al 26 dicembre, tu volevi vedere un film comico. Non c'era il cinepanettone quest'anno. No, non c'è più un film che faccia ridere con un rutto. Mm. E questa cosa va benissimo. Però ci può essere anche, scusami, ci può anche essere qualcosa di più, di un po' più elevato del rutto. Cioè, vabbè, è giusto che c'è anche il rutto. Infatti c'è. E tu dici: c'è. Manca c'è Albanese, c'è Ficarra e Picone, ci sono tutti. No, ma benissimo, eh. Però manca. Però io che amo Edwidge Fenech, Alvaro Vitali, sì, vuoi vedere Bud Spencer e Terence Hill, Boldi e De Sica, perché non ho più la libertà di vedere una cosa scurreggiona? Scusami, perché questo moralismo veramente insopportabile di questa intelligenza che ostenta questa morale a favore del nulla e che ha impedito a tanti spettatori semplici di poter godere di uno spettacolo, di un intertenimento banale. E dici di una risata anche senza pensare. Di una risata grassa, così, di una risata di pancia, ma come quelle che abbiamo vissuto tutti quanti. Cioè, a me dà fastidio sempre il fatto che questa critica poi abbia vinto dicendo sempre che il pubblico, no? Uh-huh. Io quando io dico critica me, non criticare il pubblico che mi guarda. Scusa, però quando abbiamo parlato di questa cosa qua, abbiamo lanciato sui social appunto la puntata di oggi, i toscani sono più simpatici, è successo il finimondo. Cioè, sono arrivati WhatsApp da tutta la Toscana, tutti i toscani, perché siete divisi in, non so, in campanili. Cioè, è una cosa incredibile. Ognuno voleva dirci il suo. Ne abbiamo selezionati un pochino e vorremmo ascoltarli con te. Prego. Tanto Livorno merda. Si dice a Pisa, cioè la superstrada, la Fipilì. Noi si dice Fipilì me, Firenze, Pisa, Livorno merda. Questa era un grande classico. Vabbè, succede anche all'aeroporto col contrario, però va bene. Puoi ripetere qualcosa verso Pisa? No, li amo tanti, li abbraccio fortissimo. Che stronzo che sei. Ma sì, ma certo. Augurandogli il peggio. No, non ci prendo. Guarda, ma io sono diventato talmente morigerato. Veramente, a me, io per trasgressione sono diventato buono, non hai capito? Io adesso, se vuoi, ti cito. Guarda, questo andare contro mi ha rotto talmente, per me l'odio ha talmente rotto i coglioni, che io sono diventato per Madre Teresa di Calcutta, che dice: non invitatemi a una manifestazione contro la guerra perché non verrò, ma se fate una manifestazione a favore della pace sarò in prima fila. Cioè, io mi sento molto trasgressivo quando abbraccio, quando sono buono. Una volta, sai, quando ero giovane avevo 16 anni, a scuola mi pestavi un piede, anch'io scattavo, no? Avevo quel carattere lì, un po' da bulletto anch'io. Ora, cacchio, mi viene proprio voglia, con tutto lo schifo che c'è in giro, di abbracciare. Gandiano. Ma sì, ma io lavoro con le persone down apposta perché sì, abbraccio. Fai uno spettacolo, si chiama Up and no, Down. No, ma veramente, perché è talmente insopportabile il livello di odio e di, è come dire, di non va bene niente a cui siamo arrivati, che ti viene voglia, appunto, anche con la comicità, di distruggere tutto questo e di trasmettere bellezza, bontà, meraviglia, perché basta. Dai. Alleggerire. Andrea, ce n'è qualcun altro? Allora, i fiorentini non lo sono affatto, i fiorentini sono delle merde, ma tutti gli altri toscani sono simpatici, ti dirò di più, addirittura sul confine Liguria-Toscana, cioè vicino alla Toscana, alla Spezia sono andata recentemente, e gli spezzini sono più simpatici degli altri liguri. Sono più simpatici perché? Perché sono vicini alla Toscana. Cos'è questa cosa qua? Siete un nucleo praticamente. Tra l'altro il nostro regista aprono la finestra, trovano quelli di là che gli rispondono. Esatto, sarà una roba così. Il nostro regista non voleva neanche mandarlo quest'audio perché è di Genova. Ha detto: io uno spezzino simpatico non l'ho mai incontrato. Guarda che l'ho detto, Andrea, l'ho detto. I toscani sono simpatici? No, io sono fiorentina, i fiorentini sono simpatici, il resto della Toscana fa abbastanza schifo. In realtà sono più di 15 anni che io vivo a Milano, e in 15 anni la cosa che mi manca di più è lo scherzo dei toscani. I toscani scherzano veramente su qualunque stupidaggine e ti prendono per il culo fino alla morte. Volendo, è l'unico modo per uscire dai problemi che hai. Esempio semplicissimo: tua moglie ti tradisce, arrivi in ufficio in lacrime perché hai scoperto che tua moglie ti tradisce, la prima cosa che ti dicono è: attenta a passare sotto le porte, perché tu batti le corna. E continueranno a darti del cornuto, del cervo, quello che ti pare, finché non ti ci metti a ridere anche te. E ti passa, perché la cosa vera è che prendendo per il culo le persone si ridimensiona il problema. Questo fa sì che i toscani siano simpatici. Ha ragione, forse lei ha ragione. Ha ragione lei. È vero? Come ti dicevo prima, se su qualcosa non ci si scherza, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ok. Però ora ci si prende talmente tutti sul serio che, capito? Sì, Paolo, tu mi stai descrivendo comunque un'Italia che non ha speranza, in cui non ridiamo più, non possiamo più essere cattivi, non possiamo più fare, come dire, la satira, un po' di sarcasmo. Cioè, stai mica entrando. Secondo voi, scusa, cioè Mario Giordano, ma non è che fa più sarcasmo di Ubaldo Pantani? Su quello senza ombra di dubbio. Allora, capisci? Ma perché secondo te com'è? La comicità di oggi come la vedi? È annichilita, non esiste. E allora? C'è però tutto un panorama underground. No, ma non diciamo è, che io per esempio con Colorado, io faccio Colorado, adesso sì. Riprenderà tra poco. E noi facciamo veramente fatica. Cioè, se io faccio una battuta sul mouse, su questo mouse, domani mi scrive l'associazione Mouse Italiani e mi dice di chiudere Asso la mouse. No, ma è così, capito? Allora, cioè, io... E tu ci lavori, come... tu lavori in televisione. Quante volte in riunione, nelle scalette, viene fuori qualcuno che dice: ragazzi, la cosa non puoi dirla, quell'altro non puoi dirla. Non possiamo dirla, non possiamo fare le battute, davvero. Su cosa? Qual è l'autocensura o la censura che tu senti addosso? Donne, uomini, omosessuali, lesbiche, chiesa, comunità sinti e rom, neri, blu, puffi, cinesi, cioè qualsiasi cosa. Quindi cioè, tu puoi fare battute soltanto su... Oggi ho comprato una teiera. Sketch, capito? Parte malissimo. Forse già. Anche quella della Bella la Bestia, una telefonatina te la fa. No. Sai com'è? E allora, capito, se vi va bene così, se vi piace così, ragazzi. Okay. Piace allora così. Tu com'è che ti sfoghi poi alla fine della giornata? Ma io mi sfogo nel mio privato riguardandomi le cose che mi piacciono e facendomi le risate che me le faccio in privato. Cioè io ho ritrovato il mio privato. Ci stiamo chiudendo in casa a fare le cose no, più belle? No, io vado al cinema tutti i giorni e sono felicissimo quando posso vado al cinema. E anzi, ora appunto ho detto volevo vedere questo film Jojo Rabbit, quando posso vado al cinema, ma vado a vedere film stranieri che hanno più libertà di noi e sono più scatenati di noi. Noi siamo adesso sotto questo coperchio, insomma. Ecco, a proposito di stranieri, abbiamo visto qualche settimana fa Ricky Gervais, che ai Golden Globe ha fatto 7 minuti di cattiveria assoluta. Sì, ci ha dato giù di brutto. E ci ha dato un po' di ossigeno, possiamo dire. Sentiamolo un po', va. Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for pedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. I don't care. Sì, tra l'altro la sfrontatezza, giustamente. E dice che non gliene frega nulla. Non gliene frega niente della reazione del pubblico. E invece Paolo Ruffini care. Care? Che impressione ti ha fatto questo pezzo? Ma Paolo Ruffini care, no? Cioè, nel senso, io ora sto facendo la pupa e il secchione, che è una cosa, per esempio, ultra commerciale, stracommerciale, che parla fondamentalmente anche di cultura. La faccio, secondo me, in un modo mite, perché comunque continuo a essere sincero. Ad esempio, non rido sulla persona, ma rido con la persona. Io sono contro il bullismo anche televisivo, quindi insomma di questo mi batto, e credo che ci sia una differenza tra ridere e deridere. E non sono Ricky Gervais forse perché non ho la cultura per esserlo, forse perché non ho probabilmente i mezzi per esserlo. Io credo che un genio in Italia sia stato Roberto Benigni, perché con un tema come l'Olocausto ha creato una grande commedia. Ma secondo te, scusami, la stessa battuta fatta dal più grande comico italiano poteva esistere in Italia oppure no? La stessa battuta poteva esistere nella misura in cui forse Checco Zalone è un comico che è come Totò, no? Adesso non ha più bisogno del ruolo per fare un film, cioè non è come Totò Lemoko, Totò in Africa, Totò d'Arabia, è Checco Zalone sì. Quindi è una maschera da commedia dell'arte, che forse lui, che appunto è una persona che ha una cultura pazzesca, può permettersi dei voli pindarici. Benigni è un altro, lo faceva Troisi con la poesia, ne nasce uno ogni tanto, però in questo momento storico in Italia è davvero complicato. Ma sai, il problema è anche in televisione, anche nella conduzione. Se te pensi a un conduttore di 40 anni, che per esempio mi viene in mente Alessandro Cattelan, che è un conduttore straordinario, no? Però è di una precisione, di una brillantezza, che va benissimo, però una volta c'avevi anche quel contraltare, appunto. Ci vorrebbe Luttazzi, posso dirlo? Ci vorrebbe Luttazzi. Quanto vorresti Luttazzi in TV, normalmente? Tanto. Dov'è? Facciamo un appello, lancio il numero di telefono. Non lo so, però credo si sia ritirato, non lo so, non credo. Però tutta quella fascia di conduttori ma anche Castagna, ma anche Tortora era cattivissimo. Certo. Sì. Cioè, anche ma sai quanti ce n'erano? Ma... Paolo Bonolis comunque sta filetta, eh? Paolo Bonolis, sì, sì, sì, però fa parte di quella vecchia generazione, sì, che io però amo. Io c'ho Darwin, credo sia una trasmissione fantastica. Io l'ho vista e rivista. Perché vedi, però è l'ultima propaggine di quella televisione lì che non si vergognava, no? Anche un pochino. Cioè, oggi noi per far vedere una ragazza in costume alle 22 di sera, oh, cioè abbiamo le rotture. Che va benissimo, ci mancherebbe, ma non è che prima però c'era meno attenzione al corpo della donna o c'era più attenzione al corpo della donna, è solo che ora c'hai mille rotture di scatole. Devi sempre stare attento. Ruffini, dobbiamo mettere Ruffini col costume. Col costume da, da Borat, tipo, sai quello di Sasha Baron Cohen? Sì, era lo giallino con... Ma allora, ad esempio, scusate se torno, ma anche al cinema, ma voi pensate a tipo Brutti Sporchi e Cattivi di Scola con Nino Manfredi, o Un Borghese Piccolo Piccolo di con Alberto Sordi, sì, di Monicelli. Cioè tutta quella parte cattiva anche lì, oggi non ce l'hai. Impossibile rivedere. Ma così come non hai Ultimo Tango a Parigi, come non hai Malizia, come non hai Samperi, come non hai Bertolucci, come non hai Tinto Brass, come non hai tutta quella parte pruriginosa di erotismo anche vera, no? Adesso c'hai un flat che comunque è sempre veramente, ma non è, è l'ultra politicamente corretto, cioè non so come dire. Allora, è piaciuto che vi ho rovinato la trasmissione con queste congetture pessimistiche. No, perché assolutamente il nostro queste lucubrazioni noiose, anzi io vi chiederei ai nostri ascoltatori che se anche loro vogliono luttarsi nuovamente in televisione, sì, che ce lo dicessero, al numero 340 8303 758, che è il nostro numero WhatsApp, mandateci un audio oppure scriveteci, anche mandateci a fare in culo, possiamo dirlo a questo punto. Basta. Ora chiameranno l'associazione culi italiani, esatto. No, quelli rotti. No, un'ultima polemica velocissima, sì. Abbiamo sentito un audio che parla di corna. Quante corna girano su Ruffini o Affini? Ruffini e Affini. Cosa vogliamo dire qualcosa su questo argomento? Salutiamo qua? Tutti gli amici di Off Topic. Quanti vogliamo? Basta cosa. Ma veramente. Ma non mi pare scomodare dei paralleli eccellenti. No. Pruriginoso, l'hai detto tu prima. Hai detto pruriginoso. Ma fate bene, siete giovani, ve lo potete permettere. Bene, cioè, quindi diciamo che tu non batti nelle porte uscendo. No. Lui dice fai il battere nelle porte. Ti posso dire, io alzerei le porte di tutte le case, alzerai tutte le porte in assoluto, tutte. E con questo, caro Beppe, a te la chiusura del saluto. Guarda, ricordatevi di alzare le porte di casa. Va bene, grazie mille Paola, alla prossima. Grazie. Ciao. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.